Egeria, a quanto pare era una ninfa, ovvero una divinità femminile all'addiaccio, priva di suite all'Olimpo, ma era una ninfa di rara bellezza. Nella primitiva cultura romana le donne sacrificavano in suo onore allo scopo di avere parti felici. La sua popolarità era tale che 700 anni prima della nascita di Cristo quello che passa come il secondo re di Roma, Numa Pompilio, attribuì a lei la responsabilità delle sue iniziative di legge. Questa Egeria allora si trascina dietro da secoli, oltre la bellezza, anche la sua funzione ispiratrice dei potenti. Durante il fascismo, almeno fino alle vergognose leggi razziali del 38, ninfa Egeria di Mussolini venne considerata Margherita Sarfatti. Borghese, socialista, interventista, affettuosamente e intellettualmente legata a Mussolini, fascista quindi, bella, scrittrice, amante delle arti e dell'avventura sul modello d'Annunziano. Pagò il vagone letto a Mussolini in modo che arrivasse a Roma all'indomani della storica marcia, a cui il nostro si guardò bene dal partecipare. Ne scrisse una biografia che romanamente intitolò Dux. Diresse dal 1921 al 1933 Gerarchia, che era la rivista teorica del fascismo, e lanciò nel mondo uno stile artistico che denominò Novecento Italiano. Pittori come Bucci e Sironi, Funi, Marussig, Dutreville le devono molto. Pregò invano Mussolini di non fare la spedizione militare in Etiopia, spiegandogli che se l'avesse fatta sarebbe finito in mano degli aborriti tedeschi. Ad un certo punto capì che il fascismo di Mussolini e dei suoi gerarchi non era più il suo. Capì che per lei ebrea, nonostante le rassicurazioni ricevute, l'atmosfera si stava facendo pesante e scappò. Scappò prima a Parigi, poi a Lisbona, quindi in Sud America. Altri suoi familiari meno lesti furono ammazzati nei campi di concentramento tedeschi. È tornata nel 47 ed è morta nel 61. Chi ne vuole sapere di più può leggere l'affettuosa ma corretta biografia che Sergio Marzorati le ha dedicato. È uscita a Como nel 1990. Fra i tanti incontri di Margherita con artisti, intellettuali, uomini di cultura e di scienza, mi ha divertito un incontro con Einstein. Lo incontra nel 28 a Berlino. E come risulta dal suo memoriale, che si intitola Acqua passata, la intrattiene con un aneddoto non privo di implicazioni. Allora, una bambina aveva chiesto ad Einstein di aiutarla a svolgere un compito di aritmetica che le avevano assegnato a scuola. Detto e fatto, Einstein acconsente. Più tardi viene a sapere che la bambina ha ricevuto un pessimo voto perché la soluzione del compito era sbagliata. Da un lato è evidente la tipicità di questo racconto. Einstein è all'epoca un genio universalmente riconosciuto come tale, no? E dunque nella chiacchiera mondana deve adornarsi in modo da far risultare la propria modestia e far dimenticare la propria superiorità. Il paradosso in cui lui, grande fisico teorico, sommo indagatore della complessità del cosmo, non regge il confronto con l'ingenuità di una bimba, fa al caso suo. Se qualcuno vuole evidenziare la propria importanza, nello sminuirsi, a scanso di equivoci, eccede. Mai e poi mai Einstein racconterebbe alla Sarfatti che so di aver sbagliato un'equazione nello sviluppo della teoria della relatività generale. No. Dall'altro lato non si può mancare di rilevare come il racconto scelto, oltre che adatto ad Einstein medesimo, sia adatto anche alla Sarfatti. Lui è stato avvisato in precedenza sulla persona che avrebbe incontrato. Einstein nel 28 è molto preoccupato per l'avanzata dell'antisemitismo in Germania e sa che la Sarfatti è la ninfa egeria di Mussolini, sa cioè della sua influenza sul Duce. Le si rivolge dunque anche per un'ambasciata di ordine, diciamo, politico e morale, ma proprio nelle scelte dell'aneddoto, dove Einstein fa la parte di chi consiglia a una bambina nello svolgere un compito, assume cioè un ruolo analogo a quello che assume Margherita nei confronti di Mussolini. Proprio nella scelta dell'aneddoto lascia trasparire il calcolo con cui affronta l'incontro. L'episodio mi ha divertito anche per motivi strettamente personali. Mesi fa un ragazzino che fa le medie, che mi crede un grande scrittore soltanto per queste quattro cosette che riesco a raccontare alla radio, mi ha chiesto un aiuto per un tema di italiano che trovava alquanto ostico. Gli ho spiegato che nessun tema può essere ostico per un ragazzo che voglia pensare con la propria testa, ma vabbè, dietro le sue rinnovate insistenze, è giusto per ringalluzzire un po' il mio amor proprio, alla fine ho ceduto e il tema gliel'ho svolto praticamente dalla A alla Z, avendo l'avvertenza di impoverire il lessico e di lasciare qua e là qualche inciampo sintattico affinché il professore non sospettasse di nulla. Devo dire che la lezione gli è servita e che da quella volta i temi se li svolge da solo. Per non essere da meno di Einstein, non lui, io, per non essere da meno di Einstein, quando l'ho incontrato un paio di giorni dopo, mi ha riferito che aveva preso 5 meno. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself,